rende silente l'oscurità ed ogni artiere con ansietà col sole che declina esce dall'officina. Suon di campane sodono allor come felice il cuore. Suona campana, suona, vien giù la sera. Torna cantando l'uomo dalla ferriera. Pensa ai suoi bimbi e canta alla sua casetta. Ove una zuppa e un angelo che l'aspetta. Bacia una testa bionda e una chioma nera. Come felice l'uomo della ferriera. Negli alti forni della città l'acciaio fuso sfavilla già, ma il fuoco traditore investe il forgiatore. Presso il compagno che muor laggiù nessuno canta più. Suona campana, suona, vien giù la sera. Ma non ritorna l'uomo dalla ferriera. Come più triste il suono delle campane, mentre i bambini aspettano il babbo e il pane. Torna al balcone invano colei che spera, ma non ritorna l'uomo dalla ferriera. Suona campana, suona, vieni.